Pronto Sergio? Ciao, ciao, ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, bene, grazie. Raccontami qual è la tua follia, qual è stata, se la fai ancora o se la perpetri oppure no? La mia follia è stata di sposarmi a 19 anni con una donna più grande di me di 13. Quanti anni fa erano? Erano 31 o quasi 32 anni fa. Beh, quindi insomma sposarsi giovani era già qualcosa, però 19 anni erano pochi. 19 anni sì, erano pochi. Diciamo che io sono cresciuto in una famiglia dove è stato necessario crescere in fretta. Senti, lei 13, quindi aveva 32 anni, giusto lei? Esattamente. E com'è andata? È andata che siamo ancora insieme. Detto così però Sergio mi sembra che è andata che siamo ancora insieme. Sì, è una storia fantastica. Ah. Io sono sempre molto innamorato di mia moglie, lei lo è di me. Benissimo, dimmi come vi siete conosciuti e in quanto l'avete deciso. Ci siamo conosciuti durante una gita scolastica, lei era insegnante. Lei era la maestra però? No, diciamo che lei era un'insegnante del mio liceo, ma in realtà io frequentavo un'altra sezione. No, fammi capire un secondo Sergio. Sì. Tu ti sei sposato una professoressa da allievo? Non ero più allievo perché era l'anno della mia maturità. Però? E lei non è stata una mia insegnante, nel senso che lei era un'insegnante di lettere, ma di un'altra sezione. Però, diciamo, nella tipica sceneggiatura del film di Pierino che tutti quanti noi abbiamo in testa, tu hai esaudito un piccolo sogno di ogni studente. ridi Sergio, però in un certo qual senso, proprio in quel senso lì. Sergio, ti ringrazio moltissimo, salutami tua moglie, che si chiama? Grazie. Come si chiama tua moglie, Sergio? Si chiama Ornella. Saluti alla professoressa Ornella.